Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Abbiamo già avuto occasione nelle nostre trasmissioni di incontrare quegli splendidi animali che sono gli asini. Non era ancora capitato però di parlare del loro latte, il latte d'asina, che è un prodotto che invece oggi pare che sia ricercato e abbia interessanti proprietà sia dal punto di vista alimentare che per la cosmesi. Abbiamo scoperto che a Camisano Vicentino c'è un'azienda, l'azienda Bizzotto, che produce appunto latte d'asina. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Eleonora Marchetto, appunto dell'azienda Bizzotto. Benvenuta. Grazie, altrettanto. Buona mattina, buon pomeriggio a tutti. Ecco, volevamo un po' capire come nasce l'idea e perché vi siete messi a allevare questi asini. Sì. Allora, l'idea è stata del mio ragazzo, Filippo Bizzotto, che è il titolare dell'azienda. Lui, diciamo, ha fatto proprio una scelta di vita, diciamo. Avevamo la potenzialità a casa, comunque i campi, un passato, diciamo, il nonno contadino, agricolo. E lui è sempre stato legato alla terra e agli animali, è sempre piaciuto e quindi sì, ha fatto questa scelta di personale, diciamo, di vita. E ecco, voi avete si è documentato e ha cominciato. Voi gli asini li allevate, ma vi occupate tutto anche dell'alimentazione, coltivate direttamente anche il foraggio, quindi è proprio tutto fatto in casa. Esatto, sì, il nostro è un ciclo chiuso, abbiamo circa 8 ettari di terreno, quindi là coltiviamo praticamente il foraggio, il cibo che gli viene dato e fino al prodotto finito del latte, quindi poi il fatto di mungerlo, refrigerarlo e mantenerlo e darlo al cliente finale, come anche il discorso dei cosmetici. Noi forniamo al latte un laboratorio certificato di Padova, certo. E loro ci ridanno indietro il prodotto finito con il nostro marchio. Ecco, quali proprietà ha questo latte? Perché è così interessante il latte d'asina? Beh, allora possiamo dividere a moltissime proprietà, sia dal punto di vista quindi del latte da bere che dal punto di vista dei cosmetici. Per quanto riguarda il discorso da bere, diciamo, è il latte che è quello più simile al latte materno. Proprio per questo motivo qua è stato anche fatto uno studio, una ricerca dalla sezione, diciamo, di Torino dell'ISPA, l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, il quale ha studiato praticamente una serie di bambini allergici, intolleranti, proprio allergici al latte vaccino, e ha riscontrato, ha fatto questo studio dando praticamente loro il latte d'asina, che ben il 90% non ha manifestato reazioni allergiche né ha mostrato problemi nella crescita. Quindi il latte d'asina dando il latte d'asina, sì. Quindi è indicato in particolar modo per l'alimentazione dei bambini e anche dei più piccoli in particolare. Sì, più che altro sì, anche noi, i nostri clienti sono, diciamo, 90% neonati, che si vanno dai primi proprio mesi di vita fino all'anno, dopo però ci sono anche bambini adolescenti o adulti con problemi diciamo di vario tipo, possono essere alimentari, esatto, di intolleranze, di debilitazione, persone anziane o anche persone con problemi di malattie quali ad esempio dermatiti, eczemi, psoriasi, acne, tutte queste cose qua, perché il latte d'asina, la cosa principale, diciamo, che ha dentro è l'isozima, che è praticamente un enzima, una proteina che è caratterizzata da elevata proprietà antibatterica, diciamo che è un antibiotico naturale. Il latte d'asina ne ha dentro 1 grammo per litro, che è addirittura 10 volte di più anche rispetto a quello, 10 volte di più rispetto a quello materno. E a differenza ad esempio di quello di mucca, che ne ha solo in tracce, quindi questo qua permette di proteggere ad esempio il neonato anche da possibili patologie esterne e rende il prodotto stesso anche meno deperibile rispetto rispetto agli altri. Ecco, come viene confezionato e distribuito? Con i classici, con le bottiglie, i classici, le scatole del latte, praticamente... oppure solo sfuso? Sì, no, beh, noi praticamente lo mungiamo con una mungitrice e dopo viene praticamente filtrato, messo a refrigerare da 0 a 4 gradi e poi viene stillato e al momento praticamente della consegna, quando arrivano i clienti, deve praticamente lo stilliamo in bottiglie, quelle ad esempio di plastica, del latte fresco, da mezzo, certo, da litro, in base a una persona come si trova meglio, e glielo consegniamo. Come distributore del latte fresco? La caratteristica un po' principale del latte d'asina, che è più che altro perché l'asina fa solo un litro, massimo un litro e mezzo di latte al giorno, solo per la durata di 6 mesi, considerando che il primo mese non glielo preleviamo perché deve andare tutto all'asinello. Certo, anche ecco, per questo motivo qua ha un costo, diciamo, più elevato rispetto a quello di mucca. Ecco, ne parliamo tra poco, ci dobbiamo fermare per qualche minuto. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita. Rest of my days unhappy. Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy 2 times a day. Why would I spend the rest of this week so bitter? And all that listening is making you bitter too. When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy 2 times a day. I don't wanna be around me, around me. And I don't blame you if you're blocking all my calls. Been no while since I've been sleeping soundly. Most nights I lie awake between 2 and 4. Work is stressing me out, and after all this time, it's still never enough. Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy 2 times a day. I care more about what you think than I care about the music. When I get cross with you, I'm surprised you care at all. I figure if I had a lifetime of time left, well, shame on me if I don't get to use it well. Yeah, I'm stressing you out, and at the way it's going, you need it more than me. Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy, when I can go therapy 2 times a day. Someone help me turn around. I'm a big dog, hit down on my own voice, turn it down. And all I do is aggravation. Why would I spend the rest of my day so bitter? And all that listening is making you bitter too. When I can go therapy, when I can go therapy 2 times a day. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del latte d'asina, in particolar modo stiamo parlando con Eleonora Marchetto dell'azienda agricola Bizzotto di Camisano Vicentino. Abbiamo visto le proprietà alimentari del latte d'asina, in particolar modo per l'alimentazione di chi ha delle intolleranze o dei neonati, però abbiamo visto che il latte d'asina si può utilizzare anche nel settore cosmetico. Anche in questo caso volevamo saperne un po' di più. Sì. Allora, per quanto riguarda le caratteristiche, diciamo, il latte d'asina per quello che riguarda la cosmesi, sono le seguenti, diciamo, più che altro ha molte proteine e vitamine, ABCDE, che servono per la protezione della cute contro le aggressioni esterne, come ad esempio gli effetti climatici e o il fotoinvecchiamento della pelle. Dopo è molto ricco di acidi grassi, questo va benissimo, diciamo, anche per quello che riguarda proprio l'alimentazione, in particolare omega 3 e omega 6, che servono praticamente, fungono da abili riparatori della barriera cutanea. E infine ha minerali che praticamente fungono da stimolanti del metabolismo cellulare. Ecco, voi dicevate che il vostro latte quindi lo portate ad un'azienda che produce appunto queste creme, immagino creme viso, creme mani. È un laboratorio, sì. Abbiamo diversi prodotti, abbiamo la crema viso, la crema mani, la crema corpo, un bagno doccia cremoso, uno shampoo delicato, abbiamo fatto anche apposta che non brucia gli occhi proprio per i bambini, per i neonati, e una pomata lenitiva. Dopo ogni prodotto, sono tutti prodotti certificati naturali, quindi non hanno dentro parabeni, SLES, alcol, siliconi, petrolati e sono tutti nickel testati, insomma, quindi da quel punto di vista sono naturali. Inoltre ogni prodotto è stato studiato apposta, ci sono altri ingredienti dentro oltre al latte d'asina, che ricordo è il latte d'asina crudo, non liofilizzato, quindi quello che si mette dentro e quindi mantiene tutte le sue proprietà. Altri elementi, altri ingredienti che specifici, diciamo, per la zona che deve andare a coprire, ad esempio non so, la crema viso, anche dentro l'olio di mandorle, il burro di karité per aumentare l'effetto emolliente, la crema corpo dentro l'olio di argan, ognuno è stato studiato apposta. Poi ad esempio c'è la pomata lenitiva, che in cui ha una formula, diciamo, studiata apposta, che non brucia anche laddove c'è la ferita aperta o la carne viva. Questa qua dentro ha anche l'ossido di zinco e l'olio, certo. E l'olio di calendula, ecco, che servono proprio da cicatrizzanti, disinfiammanti, e leniscono il dolore proprio. Ecco, volevo un po' capire quanti asini avete, per visto che prima ci diceva che la produzione di un'asina è di 1,5 litri massimo al giorno e per pochi mesi, a differenza delle mucche, e quindi quanti asini avete per riuscire a fare tutte queste cose? Sì, beh, noi adesso abbiamo una quarantina di asine, una quarantina di capi, ovviamente non sono tutte in lattazione, certo. Abbiamo un giro annuale, quindi abbiamo un po', diciamo, un po' di mamme, un po' di piccoli, lo stallone, e dopo ogni anno comunque sono in crescita, ecco. Bene, volevamo capire allora se è possibile visitare l'azienda, se avete un punto vendita aziendale, un sito internet dove avere informazioni, come ricevere insomma i vostri prodotti. Sì, allora noi abbiamo un sito internet che è www.latteasinino.it, tutto attaccato. Ci si può collegare anche tramite mail, alla mail info@latteasinino.it, oppure anche potete venirci a trovare direttamente in azienda o tramite Facebook, scrivendo semplicemente Latte d'Asina Bizzotto. Poi comunque noi abbiamo un numero di telefono che, insomma, è sempre disponibile a qualsiasi chiarimento, che è 349 14 74410. Benissimo, grazie. Benissimo, ok, grazie a lei. E dal latte d'asina passiamo adesso ad alcune notizie per concludere la trasmissione. Le regioni Veneto, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e Trento organizzano il prossimo 6 febbraio a Verona un meeting sul tema foreste e infrastrutture verdi. La strategia Europa 2020 dell'Unione Europea prevede infatti investimenti e un ruolo importante per le foreste alpine, che forniscono legname ed energia, ma difendono anche il territorio dai pericoli naturali come valanghe e alluvioni, migliorano la qualità dell'acqua, ospitano una parte importante della biodiversità e sono un elemento essenziale del paesaggio alpino. Al meeting parteciperanno Andrea Vettori della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea e l'onorevole Herbert Dorfman della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. Ripetiamo, venerdì 6 febbraio 2015 dalle 14 nella sala Erminio Lucchi in Piazza Olimpia 3 a Verona. Sempre a Verona, e rimanendo sempre in tema di legno, presso la fiera dal 19 al 22 febbraio si terrà l'edizione 2015 di Legno e Edilizia, una manifestazione che può contare su 20.000 visitatori e oltre 170 aziende, sia italiane sia straniere. Infine, la nuova politica agricola comunitaria, la PAC, per capirne di più, lo sportello Europe Direct Veneto di Veneto Agricoltura, che è stato anche più volte ospite in questa trasmissione, ha realizzato un opuscolo molto completo che si può richiedere e ricevere gratuitamente facendone richiesta via mail all'indirizzo europedirect@venetoagricoltura.org. Facendo attenzione a riportare in oggetto quaderno PAC numero 16. Si può anche richiedere la versione sia cartacea sia PDF. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, ci potete riascoltare in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.